Come risolvere ogni problema della nostra vita? Campo di fine anno ad Agerola. 28 dicembre 2 gennaio 2005. Per tutti noi vale una delle tre cose: o abbiamo un problema, o viviamo con un problema, o siamo un problema. Per alcuni il titolo di queste riflessioni potrà sembrare originario o solamente provocatorio, ma quando si parla di Dio e del suo regno credo che non sia il momento di scherzare, perciò o ciò che stiamo esaminando è uno scherzo, oppure è possibile risolvere ogni problema della nostra vita. E, poiché tutti abbiamo dei problemi, compreso lo scrivente, vorrei ulteriormente chiarire che io mi accingo a spiegare come risolvere ogni problema della nostra vita, e non come toglierlo. Ho letto la vincente testimonianza di un uomo di quando era piccolo. Aveva un grosso problema. Un problema talmente grave che condizionava terribilmente in modo negativo la sua esistenza. Era nato con due orecchie talmente grandi che gli sembravano le orecchie dell'elefantino Dumbo. A peggiorare la situazione era il fatto che quando si rendeva conto che qualcuno osservava attentamente con meraviglia le sue grandi orecchie, queste diventavano tutte rosse. Per questo desiderava solo stare in casa. Un giorno fu obbligato dai genitori ad accompagnarli per andare a vedere la regina dell'Inghilterra. Era arrabbiato perché doveva esporsi al pubblico e perché a lui della regina dell'Inghilterra non gli interessava proprio niente. Ma quando fu vicino al luogo dove doveva passare la famiglia reale, essendo un bambino, una calca di persone lo trasportarono proprio davanti alla transenna dove passava la regina. Si trovava a pochi metri dalla regina, quando ad un tratto la folla gridò: «Viva il re Carlo! Viva il re Carlo!» Il suo sguardo fu catturato da una figura giovanile, con due orecchie così grandi che non aveva mai visto in vita sua. Per un attimo il suo sguardo e quello del figlio della regina si incontrarono e si rese conto dell'imbarazzo del principe. Da quel giorno divenne fiero di aver due orecchie grandi. Se il figlio di una regina aveva due orecchie a sventola, era un onore assomigliare a lui. Il bambino non aveva tolto il suo problema. Le orecchie erano sempre grandi da somigliare all'elefantino Dumbo, ma il suo atteggiamento mentale nei confronti delle sue orecchie cambiò. Per questo risolse per sempre il suo problema. Anche l'apostolo Paolo aveva un problema che lui definiva una scheggia nella carne, e per questo pregò il Signore. Poiché il problema sussisteva, pregò una seconda volta e infine una terza volta. Alla terza volta il Signore gli diede una risposta e lui risolse il suo problema una volta per sempre. La scheggia della carne era sempre presente, ma per lui non era più un problema perché la grazia di Dio gli bastava. Perciò queste riflessioni hanno lo scopo di spiegare come sia possibile risolvere ogni problema della nostra vita, senza necessariamente toglierlo. Qualcuno penserà che allora il problema sussiste, ma non è così, e lo possono testimoniare tutti coloro che hanno risolto un problema nella loro vita. Con queste considerazioni, il mio desiderio è quello di aiutare coloro che non hanno più speranza di risolvere un problema personale, un problema familiare, sociale o di chiesa. Poiché la vita cristiana è unica, piena di promesse fatte da Dio, egli ha dato a tutti coloro che credono in Lui una vita abbondante, uno spirito di forza, d'amore e d'autocontrollo. 2 Timoteo 1:7. Per cui il credente è equipaggiato per combattere e vincere le battaglie spirituali. Perché allora la maggioranza dei cristiani non realizza una vita abbondante? Perché la vita di tanti credenti è una continua sconfitta? Perché hanno problemi familiari che sembrano insolubili? Perché la caratteristica di tanti figli di Dio è una continua lamentela? Perché i credenti soffrono continue depressioni, frustrazioni, abbattimenti? Sono domande che per anni hanno costituito un peso per me. Vorrei chiarire però una cosa. Non sto asserendo che il credente deve avere una vita sempre sulla cresta dell'onda, felice, serena, tranquilla, esente da ogni problema e essere sempre sorridente, in armonia con se stesso, con il prossimo e con Dio. No. Ogni uomo di Dio ha certamente i suoi momenti difficili, di abbattimento, di scoraggiamento nei quali sembra che Dio sia lontano, quella esperienza che alcuni studiosi chiamano l'eclissi di Dio. Anzi, a dire il vero, se un figlio di Dio non realizza certe esperienze negative, non può crescere spiritualmente e diventare un valido strumento nelle mani di Dio. Per questo, la parola di Dio afferma che è beato colui che sostiene la prova. Sì, è beato due volte, perché l'esperienza l'ha fortificato e ha superato la prova. Essere provati diventa allora un dono di Dio. Io non mi sto quindi riferendo a coloro che sono in preda di una crisi passeggera o a un problema momentaneo. Anche se quello che dico vale pure per queste persone, mi indirizzo principalmente a coloro che sono continuamente depressi o scontenti, che sono sempre in lite con il proprio coniuge, con la chiesa alla quale appartengono, coi amici. Mi rivolgo a coloro che non trovano alcun motivo per tornare ad avere una vita vittoriosa, a coloro insomma che hanno provato la gioia della salvezza, e poi più nulla. Sono coloro che vivono come se non conoscessero Dio. Ho cercato a lungo una risposta. Esaminando varie situazioni, tutte diverse tra loro, considerando le persone anch'esse disuguali, ho concluso che i motivi di tanto disagio fossero vari. Anche quando due persone hanno un comportamento negativo nella stessa situazione, riflettendo bene su ogni singolo particolare, si scoprono tante sfumature. Perciò è impossibile avere una ricetta uguale per tutti. È vero, le ragioni sono molteplici, ma questo non mi ha distolto dal ricercarne il motivo. Perché tanti cristiani non vivono in modo degno della loro chiamata? Alla fine ho concluso che questa situazione spirituale esistesse per due ragioni. O la persona non è mai diventata un figlio di Dio, cioè un nato di nuovo, oppure il credente non ha risolto alcuni problemi di fondo, i suoi problemi. Questi non esistono per difficoltà ambientali, ma sono dovuti alla mancanza d'armonia con se stessi. Quindi, sono problemi personali. Questi problemi, perennemente insolubili, non sono altro che la punta d'un iceberg. Oppure, se vogliamo evocare un'altra immagine, come una ragnatela. Quando diamo buoni consigli alle persone perennemente in difficoltà, facciamo come chi elimina una ragnatela. Sul momento tutto sembra tornato in ordine, ma poco dopo il ragno torna all'opera e ne tesse una nuova. Allora la cosa risolutrice da fare è eliminare il ragno. Solo così non vi saranno più ragnatele. La mia intenzione è allora, con l'aiuto di Dio, quella di togliere il ragno, affinché il credente possa ritornare in armonia con il suo creatore. Ho ravvisato tre atteggiamenti mediante i quali noi possiamo risolvere ogni problema della nostra vita. 1. Accettare la sovranità di Dio. 2. Accettare la sofferenza. 3. Avere uno spirito di preghiera. Prendiamo in esame ogni aspetto in modo dettagliato. Accettare la sovranità di Dio. D-I-O-R-E-G-N-A. Quanto sono belli, sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion, il tuo Dio regna, Isaia 52, 7. Affermare che Dio è sovrano non esprimiamo nessuna novità, perché questa è forse la più antica verità creduta e accettata dai credenti d'ogni epoca. Ma, come per tutte le cose antiche, è forse una verità, o peggio ancora, una realtà dimenticata. Devo confessare che, in 30 anni di conversione, sono stati pochi i messaggi o articoli specifici su questa caratteristica di Dio che ho potuto valutare. Solo dopo tanti anni ho preso coscienza, per lo Spirito Santo, che questo costituiva proprio uno dei peccati fondamentali della mia vita. Noi preferiamo di solito parlare di questioni morali, profetiche, o di problemi che pone il progresso, ma tacere sull'argomento della sovranità di Dio non aiuta, certo, il credente ad avere una fede completa in Dio. È giusto, quindi, richiamare alla nostra mente questo antico e quanto mai attuale assioma. Una cosa è certa, i credenti dell'Antico Testamento credevano fermamente nella sovranità di Dio. Da dove traevano questo principio? Come concepivano gli antichi giudei la sovranità di Dio? Da dove traevano questo principio? La risposta è una sola: da Dio stesso, dalla sua rivelazione. Vediamo alcuni esempi. L'Eterno sovrano sul creato. Il paese che stai per entrare ad occupare non è come il paese d'Egitto da cui siete usciti, dove seminavi la tua semente e poi la irrigavi con il tuo piede come per un orto di erbaggi. Ma il paese che state per entrare ad occupare è un paese di monti e di valli, che beve l'acqua della pioggia, che viene dal cielo, un paese del quale l'Eterno, il tuo Dio, ha cura, e sul quale stanno del continuo gli occhi dell'Eterno, il tuo Dio, dall'inizio dell'anno fino alla fine. Or se obbedirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi prescrivo, amando l'Eterno, il vostro Dio, e servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, avverrà che io darò al vostro paese la pioggia al suo tempo, la prima pioggia e l'ultima pioggia, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio. E farò pure crescere dell'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. Deuteronomio 11, 10-16. In questa promessa, forse ci sfugge che l'Eterno attribuisce a un suo personale intervento anche fatti naturali esistenti in questo mondo, come la pioggia e il crescere dell'erba, l'Eterno li attribuisca a un suo personale intervento. Questa verità verrà ripresa secoli dopo dal profeta Amos in questi termini: vi ho pure lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città e senza pane in tutte le vostre dimore, ma non siete ritornati a me, dice l'Eterno. Inoltre ho trattenuto da voi la pioggia a 3 mesi dalla mietitura. Ho fatto piovere su una città mentre non è piovuto su un'altra città. Su una parte di campo è piovuto, ma la parte su cui non è piovuto è seccata. Così 2 o 3 città vagavano verso un'altra città per bere acqua, senza potersi dissetare. Ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Vi ho colpito con il carbonzio e con la ruggine. Il bruco ha divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi e i vostri ulivi, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Ho mandato fra voi la peste, come avevo fatto in Egitto. Ho ucciso i vostri giovani con la spada, assieme ai vostri cavalli catturati. Ho fatto salire il fetore dei vostri accampamenti nelle vostre stesse narici, ma non siete ritornati a me, dice l'Eterno. Vi ho travolti, come Sodoma e Gomorra, e voi siete stati come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, dice l'Eterno. Amos 4, 6-11. Un discorso del genere non lascia indifferenti. Si percepisce la sovranità di Dio come un corpo immerso nell'acqua percepisce l'umido. Gli eventi atmosferici così normali guidati da Dio servivano per far riflettere il popolo di Israele del suo rapporto con l'Eterno. I profeti di Dio potevano esprimersi così perché tutto Israele era consapevole di come l'Eterno aveva provveduto al suo popolo per 40 anni nel deserto. Essi raccoglievano la manna per 6 giorni ed il 7° affinché si riposassero la manna non cadeva. Evento miracoloso che con il tempo divenne naturale. Poiché l'Eterno è sovrano in ogni cosa, egli aveva ordinato di lavorare la terra per 6 anni e il 7° di lasciarla riposare. Prevedendo la reazione dell'uomo, l'Eterno aggiunge: se dite, che mangeremo il 7° anno visto che non semineremo e non faremo raccolta? Io disporrò che la mia benedizione venga su di voi il 6° anno, ed esso vi darà una raccolta sufficiente per 3 anni. L'8° anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta fino al 9° anno. Mangerete della raccolta vecchia finché sia venuta la nuova. Levitico 25, 20-22. L'Eterno, il Dio degli ebrei, si è presentato come colui che provvede benedizioni dal cielo e dalla terra. Egli è il creatore sovrano. Nulla avviene senza il suo intervento. Secondo il Salmo 65, egli è anche colui che prepara il grano e lo fa crescere. In una società tecnologica è difficile comprendere un tale messaggio. La mia impressione è che i credenti del terzo millennio non siano in grado di capirlo e di vivere con questo spirito. Questo lo dico per esperienza. Infatti, da vari anni sto coltivando un orto, e da allora molte parti della scrittura sono diventate per me più vive e vere. Invito chi mi legge a coltivare un pezzo di terra, vangare, zappare, seminare, per veder realizzarsi i brani della scrittura in cui si dice di come Dio fa crescere, 1 Corinzi 3:7, e siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione, Giacomo 5, 7. Giacomo accosta la necessità di aver pazienza per il ritorno del Signore alla pazienza che deve avere l'agricoltore, poiché l'agricoltura ormai è quasi scomparsa per il semplice cittadino, non sarà forse questo un motivo della nostra impazienza e insofferenza nei confronti degli eventi della vita? L'Eterno è sovrano sugli eventi della vita dell'uomo. Il Dio degli Ebrei non si è presentato solo come colui che regna sul creato, ma anche come colui che regna su ciò che accade nella vita d'ogni persona. Leggiamo quello che ordina l'Eterno al riguardo. Chi percuote un uomo che, a motivo di questo, muore, sarà messo a morte. Se però non gli è teso alcun agguato, ma Dio glielo ha fatto cadere in mano, io ti assegnerò un luogo dove egli possa rifugiarsi. Esodo 21, 12-13. Altre versioni rendono sempre un'idea marcata della sovranità di Dio e citano che Dio gli ha fatto incontrare, e ancora, Dio glielo ha fatto capitare fra le mani. Ecco quindi che dietro a un evento o a un incidente capitato involontariamente rimane sempre la mano di Dio. Questa verità, accettata fino in fondo, sgrava da pesi e da problemi tutti coloro che si sentono in colpa per aver causato, senza volerlo, del male al prossimo. Ci sono persone che non si sono mai perdonate e hanno rovinato la loro esistenza con un rimorso tanto insistente quanto inutile e vano. Solo con una reale fede in un Dio sovrano si possono ritrovare la pace e nuove forze per vivere. Isaia 40:31. Il Dio della parola si è sempre presentato come l'autore d'ogni bene e d'ogni male che avviene su questa terra. Avvertiamo la sua sovranità in ciò che afferma il profeta Geremia in occasione della distruzione della città di Gerusalemme nel libro delle Lamentazioni al capitolo 3. Poiché il Signore non rigetta per sempre, ma se affligge, avrà compassione, secondo la moltitudine delle sue misericordie. Poiché non è volentieri che umilia ed affligge i figli degli uomini. Quando uno schiaccia sotto i suoi piedi tutti i prigionieri della terra. Quando uno perverte il diritto di un uomo alla presenza dell'Altissimo. Quando si fa torto ad un uomo nella sua causa, il Signore non lo vede. Chi mai dice qualcosa che poi si avvera se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Perché mai si lamenta un uomo vivente, un uomo per la punizione dei suoi peccati? 3:31-39. Dobbiamo essere onesti. Stentiamo ad accettare che Dio sia sovrano, cioè che voglia o permetta certe situazioni ingiuste o addirittura delle disgrazie. Eppure, gli uomini timorosi di Dio lo hanno sempre responsabilizzato in ogni cosa. Giobbe, per esempio, quando si trovò nella più profonda sventura, povero e senza figli, disse: «L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno». Giobbe avrebbe potuto dire: «L'Eterno ha dato, il diavolo ha tolto», ma la sua fede in un Dio sovrano glielo ha impedito. Accettare che Dio sia il responsabile di ogni situazione è anche l'unica soluzione per non serbare rancori verso il prossimo. È vero che ogni uomo è responsabile del male che compie, ma è altresì vero che questo rientra nei piani di Dio. Se fosse diversamente, Dio non lascerebbe crescere assieme il grano con la zizzania, Matteo 13:30, non riserverebbe gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio, 2 Pietro 2:9, riservando ad ognuno la sua giusta retribuzione. Se Dio è sovrano negli eventi della vita, non dobbiamo però pensare che egli sia anche l'autore del male. Il male non può procedere da Dio, come da lui non vengono le tentazioni nella quali ci troviamo, Giacomo 1:13, ma l'esecutore del male è sempre il maligno, come è stato nel caso di Giobbe. Che Giobbe sia stato tentato, che abbia subito la perdita dei figli e dei suoi beni, è stata la volontà di Dio, ma l'esecutore dei fatti negativi è stato l'avversario dell'Eterno, Satana. Il libro dei Proverbi afferma che è stato Dio a fare il povero, Proverbi 14 e 31, 17 e 5. Quindi, egli determina anche il tuo stato sociale. Non accettare questo significa andare contro il volere di Dio. È vero che dobbiamo cercare di migliorare socialmente, ma l'ordine di Dio è non ti affannare per diventare ricco, smetti dall'applicarvi la tua intelligenza, Proverbi 23:4, perché l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori, 1 Timoteo 6:10. Il salmista aveva compreso la necessità di un giusto equilibrio sociale, e quindi pregò, «Io ti ho chiesto due cose, non negarmele prima che io muoia. Allontana da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario perché, una volta sazio, non ti rinneghi e dica chi è l'Eterno, oppure divenuto povero, non rubi e profani il nome del mio Dio», Proverbi 37:9. Spesso è lungo e accidentato il sentiero che ci conduce all'accettazione del nostro stato sociale. Dio pretende da te una fede cieca, una totale sottomissione alla sua sovranità. Egli ti ordina. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Proverbi 3, 6. Non ti chiede di capire tutti gli eventi della tua vita dal momento che i passi dell'uomo li dirige l'Eterno. Come può, quindi, l'uomo capire la propria via? Proverbi 20 e 24. Devi credere che le grandi decisioni della tua vita, matrimonio, lavoro, eccetera, non siano eventi sfuggiti a Dio. In qualunque situazione ti trovi, sei sotto al suo sguardo. Ciò non significa che tu debba arrenderti perché, anche se non possiamo cambiare la direzione del vento, possiamo però regolare le vele in modo da arrivare ugualmente a destinazione. Dio non interverrà sul tuo futuro se non accetti che abbia operato nel tuo passato e stia adesso operando nel tuo presente. Dobbiamo anche rispettare i tempi di Dio, perché tutti dipendiamo dal tempo e dalle circostanze, Ecclesiaste 9:11, e dal momento che anche queste sono nelle mani di Dio, dipendiamo totalmente da Lui. L'ateo non è necessariamente solo colui che afferma di non credere in Dio, ma è anche colui che vive pensando di governare la propria vita, o che non permette a Dio di interferire nei suoi programmi. Ho visto un programma televisivo nel quale, in Inghilterra, erano intervistate delle persone in merito alla loro fede. A una donna fu chiesto se leggeva la Bibbia, e lei rispose di sì. Alla domanda su quale autorità avesse la parola di Dio per lei, essa rispose, «Io non permetterò mai che essa interferisca nella mia vita. Se non permetti a Dio di intromettersi nelle vicende della tua vita, pecchi di ateismo. I credenti che non vedono la mano di Dio nelle svariate situazioni della loro vita hanno una fede immatura o irreale. Dio è, per chi accetta la sua maestà, colui che fa impoverire e fa arricchire e gli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame. 1 Samuele 2, 7. Non vi è situazione negativa per il credente, perché tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Romani 8 e 28. Dio è sovrano negli eventi della nostra vita, controlla il nostro stato sociale, i nostri problemi sia temporali sia spirituali. Perché allora il credente non sperimenta una vita serena e tranquilla? Giacomo afferma nella sua lettera, «Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete. Perché non domandate? Domandate e non ricevete. Perché domandate male per spendere nei vostri piaceri? Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Giacomo 4:1-7. È evidente che le persone cui si riferisce nella lettera Giacomo non avevano una buona armonia di chiesa. Nonostante fossero figli di Dio, non avevano nessuna armonia fraterna. Avevano litigi, ira, concupivano, facevano preghiere egoistiche. La situazione però non era tanto diversa da certe realtà ecclesiastiche attuali. Come risolvere questo problema? Sottomettersi a Dio. In che cosa consiste questa sottomissione? Consiste nel credere che la situazione della Chiesa non sia sfuggita di mano a Dio, perché è Gesù che la edifica. Così, con umiltà, occorre accettarne lo stato attuale nell'attesa che Egli intervenga. Chi non si sottomette a Dio non può nemmeno rendere Dio responsabile del suo futuro e quindi della sua protezione. Considerare le realtà terrene. Una notte Gesù spiegò a Nicodemo, un dottore della legge, la necessità della nuova nascita per entrare nel regno di Dio. Nicodemo non capiva e replicava all'invito di Gesù, il quale dovette così apostrofarlo. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? L'interrogativo di Gesù era chiaro. Una fede nelle realtà celesti è possibile solo se preceduta da una fiducia negli eventi terreni. Da questa considerazione sorge evidente la riflessione che se noi abbiamo poca fede nella sovranità di Dio è perché non valutiamo il senso pratico delle cose della vita. Cose semplici, umane, terrene. Ne sono una riprova i seguenti due esempi. Un centurione invitò Gesù a guarire un suo servo e Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati. E dico a uno: va ed egli va, e a un altro: vieni ed egli viene, e al mio servo: fa questo ed egli lo fa». Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno, in Israele, ho trovato una fede così grande». Matteo 8:7-10. Da dove veniva questa straordinaria fede del centurione? Eppure, egli non era nato in un ambiente religioso, non aveva imparato la Torah da bambino, né era un capo religioso. La sua fede scaturiva semplicemente dall'accostare le vicende della vita a quelle spirituali. Se un centinaio di soldati ubbidivano ad un solo suo ordine perché ne era il capo, così, dal momento che egli riteneva Gesù un'autorità religiosa, credeva anche che ogni sua parola s'adempisse. Una donna cananea gridava a Gesù d'avere pietà di sua figlia, che era gravemente tormentata da un demone. Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini meno». Ma ella disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Matteo 15:26-28. Mentre Gesù dovette rimproverare più volte i suoi discepoli per la loro poca fede, lodò la donna per la sua grande fede. Come poteva avere una simile fede una donna che non era seguace di Gesù? Essa accettò umilmente di far parte di quei cagnolini cui si riferiva Gesù. Ma come i cagnolini mangiano le briciole dei padroni, così essa ritenne che Gesù avesse per lei una briciola per guarire sua figlia. Essa s'appellava con fiducia alla misericordia e alla potenza di Gesù. Proprio perché una fede spirituale nasce dall'osservare come Dio opera nel creato, Gesù invita i suoi discepoli a considerare gli uccelli del cielo e i fiori dei campi. Come sono curati e nutriti dal loro creatore? Matteo 5:26-28. In una società tecnologica come quella del nostro tempo, noi guardiamo le strutture costruite dall'uomo, ci fermiamo ammirati davanti a palazzi e grattacieli. Ma tutto ciò induce a glorificare la creatura e non stimola la fede in Dio. Quando Gesù comandò d'amare i nemici per assomigliare al Padre Celeste, egli prese l'esempio non da strutture umane, come il bellissimo tempio costruito da Erode, ma dai fenomeni fisici più naturali di questo mondo, il sole e la pioggia. Poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere, sui giusti e sugli ingiusti, Matteo 6:1-4, nessuno prima di lui aveva fatto un tale accostamento, tanto banale quanto profondo. I credenti del Nuovo Testamento, afferma Paolo, ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. 1 Corinzi 2:12. Con la venuta di Gesù Dio aveva stabilito una comunione diretta e continua con i suoi figli mediante lo Spirito Santo promesso, perché fossero guidati nelle loro scelte. I discepoli non capirono subito l'importanza di tale dono. Così, al primo problema tornarono ai vecchi metodi, come per esempio per la scelta di Mattia, raccontata in Atti 1:15-26. I discepoli volevano scegliere un altro apostolo in sostituzione di Giuda. Come comportarsi? Non conoscevano altro metodo che quello di affidarsi alla sorte guidata da Dio. E così procedettero in quella direzione. Ma sbagliarono, almeno per 3 motivi. 1. Dio non aveva ordinato di tirare a sorte come nel caso di Acan o Saul. 2. Chiesero a Dio che la sorte cadesse sulle persone che loro avevano scelto. 3. Dovevano aspettare, secondo la promessa di Gesù, la discesa dello Spirito Santo. Più tardi, infatti, Dio si sceglierà Paolo al posto di Giuda. Poco dopo la discesa dello Spirito Santo, i discepoli si trovarono di fronte a un primo grande problema. Dovevano decidere chi avrebbe servito alle mense. Come comportarsi? Avrebbero chiesto a Dio un intervento miracoloso? Avrebbero ancora tirato a sorte? Questa volta non lo fecero, ma con un atto rivoluzionario elessero degli uomini, Atti 6:1-7. Il verbo eleggere significava non lasciarsi più guidare dalla sorte, ma valutare, scegliere con l'intelligenza e con la fiducia che essa sia guidata dallo Spirito Santo. I primi discepoli credevano in un Dio sovrano capace di guidare il loro discernimento. Lo stesso metodo in seguito venne usato dai credenti delle varie chiese fondate da Paolo. Per avere dei conduttori, fiduciosi nella sovranità di Dio, pregavano, riflettevano, sceglievano, convinti che la loro scelta sarebbe stata conforme alla volontà di Dio. Cosa ci insegna tutto questo? Dio ha promesso di donare lo Spirito Santo a tutti i suoi figli, del comprendere la sua parola, per avere l'amore, la forza, l'autocontrollo, l'inclinazione alla santità e soprattutto per conoscere la sua volontà. E questa è la fede. Forse questo è uno dei primi e più elementari errori di noi cristiani, non credere che una scelta fatta con discernimento e con uno spirito di preghiera sia la volontà di Dio. È chiaro che tutto questo è relativo, perché possiamo interpretare erroneamente il volere di Dio. Ma se una scelta è sbagliata, lo Spirito Santo può rivelarcelo. Il cristiano non è solo, non è in balia degli eventi, non compie qualcosa che sfugge agli occhi di Dio. Quando le sue scelte non esulano dalle regole chiaramente espresse da Dio, allora può avanzare serenamente per fede, sapendo d'essere sotto l'occhio vigile di Dio. Vi sono credenti che, per paura di sbagliare, non si assumono mai la responsabilità di decidere e sono sempre timorosi di commettere errori. Ma l'ignavia è proprio l'errore che fanno. Per compiere la volontà di Dio occorre averne prima una propria e poi sottometterla a quella di Dio. Non è sintomo di sana vita spirituale l'accettare passivamente ogni cosa. Anche lo stoico reagisce così. Gesù pregò nel momento più difficile della sua vita: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Non è peccato avere dei desideri, delle mete, degli obiettivi, delle ambizioni. È sbagliato quando tutto questo non è sottomesso alla sovranità di Dio. La sottomissione alla sovranità di Dio libera il credente dalla frustrazione, dalla delusione, dallo scoraggiamento, dal giudizio precipitoso sul governo di Dio. Ecco allora che le scelte di una chiesa, come l'elezione dei conduttori, una volta fatte, devono essere accettate come volontà di Dio. Forse in seguito si potranno avere ripensamenti se esse non risponderanno alle nostre attese, ma sono convinto che tutti avremmo avuto delle perplessità nella scelta di Davide, come re da parte di Dio, quando questi in seguito si macchiò di tradimento, d'omicidio ed adulterio. Lo conferma è che molti suoi contemporanei rifiutarono che regnasse ancora su di loro. Lo stesso criterio vale per la scelta del coniuge. Mai come oggi siamo liberi di scegliere il nostro partner, ma mai come oggi vi sono stati tanti divorzi. Forse abbiamo pregato da soli o in compagnia con il fidanzato o la fidanzata per conoscere la volontà di Dio. Ci siamo decisi a sposarci, sicuri che le convinzioni scaturissero dall'alto. Ma ecco che al primo grosso problema cominciamo ad avere dei dubbi. Non ho pregato nel modo giusto? Ho forse inteso erroneamente la volontà di Dio? È possibile che Dio m'abbia dato tale compagno o compagna? Una cosa è certa, Dio non dormiva quando vi siete sposati. Il coniuge che hai è quello giusto per te. Certo, noi vorremmo un coniuge secondo il nostro ideale. Perfetto, sensibile, comprensivo, pieno d'attenzioni. Ma come Dio non dà a tutti la medesima salute, le stesse risorse economiche, uguali capacità, così accade anche per il matrimonio. Non vi sono scelte giuste o sbagliate che Dio non permetta per il nostro bene. Colui che accetta questo Dio, che lo riconosce in tutte le sue vie, vedrà i suoi sentieri appianarsi. Proverbi 3, 6, sarà una persona serena, tranquilla, infonderà serenità, fede, amore. Annuncerà la pace, sarà araldo di notizie liete, annunzerà la salvezza, dirà a Sion il tuo Dio regna. Questo è il messaggio da credere, accettare e predicare. Accettare la sofferenza. La sofferenza è la sola moneta internazionale che il mondo conosca. Non richiede né un interprete, né un dizionario. Essa è stampata sulla faccia dell'umanità. Il dolore rappresenta la dicotomia più profonda. Produce una schiacciante sensazione di solitudine, mentre in realtà siamo tutti accomunati da questa esperienza. Può condurre una persona a odiare Dio proprio nel momento in cui ne ha più bisogno. Il dolore attizza la rabbia, evoca disperazione. I suoi sintomi sono azioni convulse. Un grido, un pugno serrato. Silenziose ondate nel cuore che sembrano soffocarne il battito se non giunge un po' di sollievo. La sofferenza a prima vista è nemica, ma, quando la comprendiamo maggiormente, diventa un'amica molto cara. Abbiamo constatato che possiamo risolvere i nostri problemi quando accettiamo la sovranità di Dio, ma non è sufficiente perché è necessario accettare anche la sofferenza. La vita cristiana, a dispetto di quanti predicano in altro modo, è principalmente cosparsa di sofferenza. Una bambina, a un incontro di ragazzi, mi ha fermato chiedendomi: «Il Signore ci ha ordinato di essere felici perché dobbiamo soffrire, cioè andare a scuola e studiare tutti i giorni?» Evidentemente anch'essa aveva un'idea del cristianesimo un po' inesatta. Gesù ha promesso gioia e riposo mediante la sofferenza. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Matteo 11, 28-30. Gesù promette il riposo, lo stato d'animo di cui abbiamo bisogno per risolvere i nostri problemi. Però quello che forse sfugge a noi credenti è che Gesù sta parlando di due tipi di riposo e tutti e due condizionati da qualcosa. Il primo riposo è il risultato della conversione e consiste nell'andare a Gesù. Il secondo riposo è quello che trova il cristiano nel portare il giogo di Cristo unito alla mansuetudine e all'umiltà. Essere mansueti e umili significa accettare serenamente disagi, ostacoli, difficoltà. Facciamo alcune riflessioni in merito al giogo di Cristo. Kos è il giogo e uno strumento di legno collocato con la parte interna, generalmente cava, sulla testa o sulla nuca di una coppia di buoi, attaccati a un veicolo o a un aratro perché avanzino dello stesso passo. Questa immagine di cui si serve Gesù per affermare come il credente può trovare riposo non è scelta a caso, ma rispecchia perfettamente la realtà della vita cristiana. Innanzitutto il giogo è uno strumento che serve per lavorare, e così la vita cristiana è paragonata a un lavoro che si deve svolgere, non a un periodo di vacanza e di rilassamento. L'assurdo della vita è che chi cerca solo il riposo non lo trova, chi cerca e non rifiuta il lavoro invece trova l'uno e l'altro. Se siamo stanchi in partenza, è probabile che non stiamo portando niente, è probabile che siamo inattivi. Altro aspetto del giogo è che bisogna portarlo in due, e il secondo in questo caso è Gesù. Questo significa che quando un figlio di Dio lavora con impegno e sofferenza non è solo, ha un compagno che, essendosi fatto uomo, comprende ogni sofferenza umana. Il terzo aspetto del giogo è che esso ci vincola ad andare dove va il nostro compagno. Se lo seguiamo avremo delle sofferenze e dei carichi leggeri. Se desideriamo andare per conto nostro, le contrarietà diventeranno insopportabili, produrranno depressioni, scoraggiamenti, amarezze. Se la situazione che viviamo è insostenibile, allora dobbiamo rivedere il nostro cammino davanti a Dio, perché le conclusioni sono due: o quello che Gesù ha affermato non è vero, oppure stiamo portando pesi e problemi che non vengono da Dio. L'Apostolo Pietro lo ha detto chiaramente: chi parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. 1 Pietro 4:11. Svolgere compiti e assumersi impegni che sono oltre alla nostra portata non è né buono né saggio. La volontà di Dio, oltre ad essere buona e perfetta, è anche gradita o accettevole, cioè è possibile metterla in pratica. ALCUNITIPIDISOFFERENZA. Per quanto posso arguire, distinguo cinque tipi di sofferenza: la sofferenza naturale, quella giusta e quella ingiusta, la sofferenza di astinenza e quella cristiana. Esaminiamoli dettagliatamente. 1. Sofferenza naturale. La prima domanda che sorge spontanea è: perché soffriamo? Questa domanda è vecchia quanto l'uomo. Come cristiani si è tentati subito di affermare che è un mistero della fede, ma ciò significa spiritualizzare l'aspetto umano. I figli di Dio dovrebbero ricordare ad ogni istante che prima di essere dei credenti, sono degli uomini che vivono in un universo retto da leggi giuste e buone, uguali per tutti. Le leggi fisiche non fanno differenza tra atei e religiosi, tra buoni e cattivi. Inoltre, bisogna prendere atto che, secondo le circostanze, una medesima legge può avere effetti diversi. Esiste la legge di gravità. Essa ci permette di camminare, ma se cadiamo nel vuoto ci facciamo del male. Il fuoco scalda, ma se ci avviciniamo troppo ci brucia. L'acqua disseta, ma chi non sa nuotare e cade in mare, annega. La luce illumina, ma può anche accecare qualcuno che esce dal buio completo. Questi esempi mettono in evidenza che non esiste nessuna legge i cui effetti siano esclusivamente a senso unico. Un'altra riflessione in merito alla sofferenza ci porta a considerare l'immutabilità delle leggi di natura. Le leggi naturali impediscono che il mondo in cui viviamo sia uniformemente piacevole per tutti allo stesso tempo. Dove vi è una montagna è ovvio che chi scende cammini agevolmente, mentre chi sale faccia fatica. Oltre a ciò, una grande varietà di condizioni fisiche e di sensibilità individuali impediscono un accordo totale per tutti. In estate, per esempio, il caldo è piacevole per alcuni mentre è fastidioso per altri. Anche una ragazza che, corteggiata da due giovani, ne sceglie uno, rende felice questo e ferito l'altro. Infine, molta sofferenza nasce dall'ignoranza e dalla disarmonia. Il bambino vede la candela e la tocca bruciandosi. Se sono distratto sul lavoro e mi ferisco un dito, non è colpa di nessuno se non mia. Se attraverso con il semaforo rosso e provoco un incidente, devo solo prendermela con me stesso. Infine, se lascio aperto il gas e scoppia la casa, devo solo incolpare la mia sbadataggine. Questi esempi ci fanno comprendere che non possiamo sempre attribuire la sofferenza alla divinità, a un essere superiore. Soffriamo soltanto perché esistiamo. Non vi è altro da aggiungere. Giustamente osserva l'Ecclesiaste. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio. Il buono, il puro e l'impuro. Chi offre sacrifici e chi non li offre. Tanto è il buono quanto il peccatore. Tanto è colui che giura, quanto chi teme di giurare. Ecclesiaste 9, 2. Poiché la sofferenza attende sia il giusto che l'ingiusto, vi sono preghiere che non hanno senso. Il Signore fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, perciò non ha senso pregare Dio che faccia splendere il sole, solo perché noi dobbiamo intraprendere un viaggio, anche perché contemporaneamente altri credenti, che coltivano la terra, potrebbero pregare perché cada la pioggia. Accettare nel modo giusto le contrarietà e la sofferenza che procura la nostra esistenza è un sintomo di salute psichica. In effetti, le persone che non sono psicologicamente normali non sanno affrontare le situazioni della vita. Vedono tutto difficile e contrario, ogni difficoltà per loro è un nemico alla felicità. Vi è stato un episodio nella mia vita che è stato molto significativo. Un giorno d'estate ero andato sul balcone, perché c'era un bel venticello. Poco dopo vedo una bambina nel balcone di fianco che esce di casa, tutta intenta a giocare con un tavolino, dei piatti e delle posate. Comprendo che vuole apparecchiare. Dopo aver disposto il tavolino, prende la tovaglia cercando di distenderla sulla tavola. Ma, avendola messa contro vento, la tovaglia non si appoggiava sulla tavola. Prova una volta. Prova due volte. La bambina insisteva nel voler mettere la tovaglia sulla tavola. Infine, dopo vari tentativi, si volte in modo che la tovaglia si appoggi sulla tavola. Quella bambina aveva dimostrato di sapersi adattare alle circostanze negative. Il suo atteggiamento ha rivelato una salute psichica. Vi sono credenti che hanno una vita estenuante, sempre in difficoltà, semplicemente perché vivono controcorrente, non si lasciano modellare dal Dio delle circostanze. Nessun uccello potrebbe stare in volo per ore se non sapesse sfruttare le correnti. Chi ha una vita dura e difficile e vede tutto contrario deve rivedere il suo rapporto con il Creatore. Probabilmente la presenza di Gesù Cristo non è una realtà quotidiana. Quindi noi abbiamo difficoltà nella vita soltanto perché esistiamo. Le creature provocano dolore quando nascono, infliggono dolore finché vivono, e nella maggior parte dei casi muoiono anche nel dolore. Accettare la sofferenza non è allora un fatto secondario, ma una condizione per risolvere ogni problema della nostra vita. Con questo non si vuole intendere che chi accetta la sofferenza ne sarà esente, ma che l'accettazione del dolore è il primo passo per avere il giusto atteggiamento verso la vita, perché spesso non è tanto il dolore a creare difficoltà nella nostra esistenza, ma l'atteggiamento sbagliato verso la sofferenza. Pochi mesi prima di andare in pensione, un peso di qualche tonnellata mi schiacciò, per miracolo solo un dito. Fui trasportato in ospedale e lungo il percorso, benché sentissi male, sorridevo. Ad un certo punto chi mi accompagnava, vedendo il mio dito ridotto piuttosto male, mi chiese se per caso non avessi battuto anche la testa. Gli risposi di no, ma aggiunsi che ridevo, perché ero felice di non aver perso nell'incidente non solo la mano, ma anche il dito. Secondo certi canoni non è possibile sorridere quando si soffre, ma chi si è esercitato a considerare il lato positivo di ogni cosa, sorride sempre. 2. Sofferenza giusta. Iniziamo a considerare la sofferenza giusta prendendo in considerazione ciò che Paolo ha scritto ai Tessalonicesi. È giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. 2 Tessalonicesi 1, 6. Secondo l'affermazione di Paolo, è giusto per coloro che producono sofferenze ai cristiani ricevere da parte di Dio delle afflizioni. Questo aspetto può darsi che lasci perplesso qualcuno che ha un'opinione di Dio molto romantica, ma non dobbiamo dimenticare che il Dio dei cristiani si presenta sia come il Salvatore che come il Vendicatore. Proprio perché Dio è un Vendicatore, egli ordina ai suoi figli di non far vendetta ammonendo: a me appartiene la vendetta e la retribuzione, Ebrei 10:5. Penso spesso all'aspetto di un Dio Vendicatore e trovo terapeutico il fatto che il Dio dei cristiani faccia vendetta, poiché dal momento che nell'intimo di ognuno di noi vi è il senso di giustizia che esige che chi compie il male lo ripaghi, e poiché non possiamo fare le nostre vendette, sapere che Dio farà vendetta al posto nostro rende più sereno l'animo. Vi è però anche il rovescio della medaglia a questa verità. Dio non retribuisce il male solo ai non credenti, ma anche a chi pone fede in Lui. Paolo scrisse ai Galati: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna. Galati 6:7. Come esiste quindi una legge nel campo naturale, secondo la quale se seminiamo grano raccogliamo grano, esiste anche una legge spirituale, secondo la quale se facciamo del male riceviamo del male. Il figlio di Dio salvato per grazia non è esente da questa legge. Dio è amore. Il Vangelo è un messaggio d'amore, di perdono. Ma è anche vero che Dio retribuisce il male. Chi fa torto riceverà la retribuzione del torto. Colossesi 3:25. Forse questo è il principio più difficile da accettare per i cristiani. Io soffro perché me lo merito. Abbiamo nella parola di Dio innumerevoli esempi di uomini timorosi di Dio che hanno ricevuto le conseguenze dei loro errori. Giona subì la conseguenza di stare 3 giorni e 3 notti nel ventre di un pesce perché aveva disubbidito a Dio. Sansone diventò cieco e più tardi morirà per aver ceduto alle attrattive di una donna. La vita di Davide fu caratterizzata da continue sofferenze familiari per aver studiato e realizzato un piano per commettere un adulterio e un omicidio. Saul passò tutta una vita tormentata a causa del suo orgoglio. Nel Nuovo Testamento leggiamo che alcuni cristiani di Corinto erano infermi o malati, e altri ancora morivano perché non discernevano nel pane e nel vino che prendevano alla cena del Signore il corpo e il sangue di Cristo. Nel libro degli Atti leggiamo che 2 sposi, Anania e Saffira, morirono per aver mentito agli apostoli di comune accordo. Di fronte a questi episodi conviene quindi chiederci: perché quando riceviamo dei torti ci ribelliamo, ci lamentiamo o invochiamo giustizia da Dio? Noi non abbiamo mai fatto un torto? Non ci ha forse avvertito Gesù che come giudichiamo saremo giudicati? Perché rimaniamo offesi se siamo giudicati severamente? Non abbiamo noi mai giudicato con durezza? La permalosità non ha forse sede nel nostro orgoglio? Quando il Signore tratta duramente certi suoi figli, non risponde forse alla loro preghiera: rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori? Meno, se Dio ci tratta come noi trattiamo gli altri, perché ci lamentiamo? Alcune sofferenze ci toccano proprio perché noi le chiediamo con la preghiera del Padre nostro. Possiamo noi accusare nostro Padre delle risposte alle nostre preghiere? L'unica cosa saggia da fare è di ritenere che tante sofferenze che ci capitano siano giuste. Ho detto tante sofferenze, ma non tutte. In effetti, chi teme Dio ha come scopo principale di essere santo, giusto, misericordioso e di trattare il prossimo meglio di come viene trattato. Sembra assurdo, ma questo atteggiamento di benevolenza fa sì che il figlio di Dio sia trattato anche ingiustamente. Il libro dell'Ecclesiaste è stato scritto da chi ha investigato con saggezza tutto quello che si fa in questa vita e nella sua ricerca si è reso conto che ci è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi,

cessa dall'ire e lascia lo sdegno, non affliggerti. Ciò porterebbe anche te a far del male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma coloro che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Salmo 37, 1 a 9. Poiché la prima reazione di fronte all'ingiustizia è affliggersi, arrabbiarsi e sdegnarsi, e a volte, dobbiamo dirlo con onestà, portare anche invidia. Perché nonostante tutto per i malvagi le cose spesso vanno bene, Dio ci ordina di abbandonare ogni nostro insano impulso, quale l'ira o lo sdegno, per rimettere la nostra sorte nelle sue mani. L'ordine di Dio di rimettere la nostra sorte nelle sue mani è molto significativa e opportuna alle nostre riflessioni. Abbiamo considerato che per risolvere i problemi della nostra vita dobbiamo accettare prima di tutto la sovranità di Dio, sovranità che si esprime nelle circostanze della vita. Così, chi si trova ad essere coinvolto nel vortice dell'ingiustizia, se teme Dio, deve riporre il risultato finale come volere divino e, alla luce delle ultime riflessioni, deve anche rallegrarsene perché la volontà di Dio si è compiuta. È normale e umano desiderare di non soffrire, e al riguardo pensiamo a Gesù nel Getsemani che chiese se era possibile di non bere il calice, ma quando il desiderio di compiere la volontà di Dio è superiore alla volontà di non soffrire, allora possiamo anche riuscire ad essere felici quando soffriamo ingiustamente. Abbiamo noi la brama così forte di compiere il volere di Dio, al punto che siamo pronti anche a soffrire per Lui ingiustamente. 4. Sofferenza di astinenza. L'Apostolo Pietro scrive nella sua prima lettera quanto segue: «Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che, cioè, colui che ha sofferto nella carne, rinuncia al peccato». 1 Pietro 4:1. Quando un'anima si ravvede e diventa figlia di Dio, resta ancora viva in lei l'inclinazione verso il male. La natura peccaminosa non è annullata dalla presenza dello Spirito Santo e dalla nuova nascita. Per questo, il credente è l'unica persona al mondo che possiede due nature, la vecchia e la nuova. L'Apostolo Paolo lo esprime molto bene nella lettera ai Galati. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Galati 5 e 17. È un'utopia pensare che, con la conversione, spariscano le inclinazioni verso le cose sbagliate. Nella sua misericordia Dio può anche operare questo in certi settori, ma la regola è che la santificazione avvenga lentamente e progressivamente. Purtroppo, per alcuni figli di Dio, il desiderio di santità nasconde un'insidia, spesso non individuata. Non potendone fare a meno, chi ha posto fede in Cristo si rende conto che, in Lui, continuano ad agire gli impulsi peccaminosi che spadroneggiavano nel suo intimo prima di ricevere una nuova natura. Si rende conto che più aspira alla santità, più si trova a combattere con una natura la cui inclinazione è esattamente all'opposto. Poiché considera tale esperienza non spirituale, egli tenderà a non riconoscerla, se non addirittura a rifiutarla. Sentirà la propria inclinazione a peccare come un atto di debolezza e come il risultato di una mancata comunione con Dio. Ma non è così. La presenza della legge del peccato è sempre presente in un figlio di Dio, per cui, se non si è sotto l'impulso dello Spirito Santo, è normale essere indotti a peccare. Poiché il nato di nuovo vive normalmente nella volontà di Dio, egli trova strano essere ancora in grado di peccare e, a volte, se ne meraviglia al punto di accusare il diavolo o i fratelli per la sua mancanza. Nel suo intimo dice: «Io non penso proprio di essere in grado di compiere queste cose». Inconsapevolmente rifiuta di avere ancora una natura malvagia e corrotta, come l'aveva quando non conosceva né Dio né Gesù Cristo. Per questo si offende se qualcuno gli fa notare che sta sbagliando, o se viene ripreso, perché ritiene tale osservazione o riprensione diretta a lui, alla sua moralità e non tanto alla sua natura peccaminosa.

Se Cristo ebbe bisogno di soffrire per imparare l'ubbidienza, per essere completo, per comprendere gli altri, non ne abbiamo noi più bisogno di Lui? Ho esaminato questi cinque tipi di sofferenza, ma non ho certamente esaurito l'argomento. Anzi, esso diventa più complesso quando entriamo nel campo della psicologia. Prendo atto che non tutti i cristiani vedono favorevolmente la psicologia, alcuni la demonizzano, ma concordo con la testimonianza del cristiano medico e psicologo Paul Tournier. Le mie certezze della fede non mi impediscono di studiare da psicologo le motivazioni delle mie scelte, poiché è per mezzo di questi meccanismi psichici che Dio ci conduce dove vuole. Dalla scoperta di questa disciplina ho avuto un grande aiuto nel capire e accettare le circostanze negative per me e per accettare il mio prossimo. Gli psicologi affermano che alcune persone inconsciamente cercano le sofferenze. Un'analisi del genere fa pensare. Sembra assurdo, ma è vero. Anche con la nostra modesta esperienza, osservando la vita di certe persone, abbiamo constatato la realtà di questa analisi. Il nostro inconscio esiste, non possiamo negarlo. Anche i credenti dell'Antico Testamento, ben prima di Freud, erano coscienti di questa parte sconosciuta dell'uomo perché pregavano: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Salmo 19 e 12. E ancora, esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se ci è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Salmo 139, 23. I veri fedeli sapevano di camminare rettamente, ma erano altresì consci, meno molto probabilmente guardando gli altri meno, che potevano mancare inconsciamente in cose che rattristavano Dio. La loro sincerità li portava a invocare l'Eterno, di mettere in evidenza ai loro occhi ciò che per loro era nascosto e mancante davanti a Dio. Sono le contrarietà che mettono in evidenza o rivelano le nostre vere inclinazioni o difetti. Come scopriamo se una persona è zoppa solo chiedendole di camminare, così è solo avendo nemici, contrarietà, problematiche, sofferenze di ogni genere che scopriamo se il nostro amore è reale o fittizio. Come risolvere allora i nostri problemi inconsci? Se ci troviamo in una situazione che sembra senza via di uscita, o se continuamente ripetiamo gli stessi errori, chiediamo a Dio di rivelarci quello che non va. Confessiamo che vogliamo onorarlo con una vita giusta e santa, ed egli non mancherà di parlarci. Inoltre, poiché Dio non usa solo la sua parola per risolvere i nostri problemi, parliamo con un fratello o sorella che abbia la possibilità di aiutarci psicologicamente. Dico psicologicamente, e non solo spiritualmente. Mi rendo conto che un simile consiglio produce in alcuni una reazione negativa, perché le istituzioni religiose guardano il ramo della psicologia e psicoterapia con diffidenza, e per questo non hanno favorito il diffondersi di queste discipline. È una reazione perfettamente comprensibile, quando si consideri che tradizionalmente coloro che, spinti dal malessere interno, desiderano cambiare i loro sentimenti o il modo di vivere e di pensare, ricorrono per lo più agli psicologi. Ma se consideriamo attentamente il modo in cui Gesù si relazionava con il prossimo, aveva spesso atteggiamenti da psicoterapeuta. E poiché vi sono credenti che, oltre ad avere una spiritualità evidente, hanno pure il dono di ascoltare e capire in modo particolare il prossimo, cerchiamo coloro che possono aiutarci a conoscerci. Perché consiglio ad alcuni figli di Dio ad un approccio dal punto di vista psicologico? Sempre per lo stesso principio che abbiamo considerato fino ad ora. Noi siamo uomini prima di essere dei religiosi, e abbiamo molti dei problemi psicologici che hanno gli increduli. Il medico psicologo Paul Tournier racconta di una donna che era andata per consultarlo in merito a dei disturbi di menopausa perché le cure mediche non avevano apportato alcun sensibile miglioramento. Era una donna cristiana, con una bella vita spirituale che le ha conservato la giovinezza dell'anima e del fisico. Mediante la sua fede, questa credente aveva accettato la vedovanza ed era ringiovanita nonostante la prova. Ma una nuova difficoltà si era presentata insidiosamente, quella di non accettare di invecchiare.

Parlando di preghiera, entriamo in un campo molto delicato e personale. Ma il mio scopo non è quello di consigliare come si deve pregare, perché cosa si deve pregare e quando. Vi sono buoni libri per questo. Un uomo si chiedeva qual era la posizione migliore per pregare. Lo chiese a vari fratelli, ma le loro opinioni erano discordanti. Così indeciso com'era, preferiva non pregare. Un giorno accadde che scivolò giù per un dirupo e rimase con i piedi, impigliati in un ramo d'albero, con la testa all'ingiù. In quel momento cominciò subito a pregare. Quando sarà il momento, credo che tutti sapremo come comportarci. E, come voler insegnare a un bambino, come si dovrà comportare quando si innamorerà di una ragazza. Può imparare tante nozioni, ma quando si innamorerà l'istinto gli suggerirà il da farsi. Preciso una cosa, non ho affermato che non risolviamo i nostri problemi perché non preghiamo, ma perché ci manca uno spirito di preghiera. La differenza è notevole. Pregare è un istinto naturale. Tutte le religioni prevedono e ordinano di pregare. Spesso, le persone che per tutta la vita proclamano di essere atee, quando si trovano in serie difficoltà, pregano. È stato detto che in un aereo che cade non vi sono atei. Perfino i demoni pregano. Nell'Evangelo di Marco al capitolo 5 si racconta che i demoni, di nome Legione, pregarono Gesù con insistenza perché non li mandasse via dal paese. Anche gli abitanti del paese pregarono Gesù affinché se ne andasse dai loro confini, come pure l'indemoniato perché voleva stare con Gesù. Molte persone, come pure certi cristiani, si sentono approvati solo perché pregano, ma questa è una falsa pace. Poi, la loro vita è un continuo insuccesso. Pregare dunque non basta. L'Evangelista Marco racconta l'episodio del fico che Gesù maledice. I discepoli sono stupiti nel vedere il fico seccarsi in un istante e Gesù li incoraggia, dicendo: «In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, meno se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute, e voi le otterrete». Marco 11 e 24. Due capitoli prima, l'Evangelista racconta l'episodio del ragazzo indemoniato che Gesù guarisce. Ancora una volta i discepoli sono stupiti perché loro non erano riusciti a guarirlo e Gesù spiega il motivo. Questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera. Marco 9, 14, 24. Non si può sostenere che Gesù in quel momento stesse pregando o lo avesse fatto precedentemente. Egli si riferiva a qualcosa di più della semplice preghiera. Con questo non sostengo che pregare non serva, o che i programmi di preghiera siano inutili, ma desidero far comprendere che se noi ci trasciniamo dei problemi irrisolvibili, molto probabilmente la causa è la mancanza di uno spirito di preghiera. Cos è dunque questo spirito di preghiera? Paolo lo ha espresso nel seguente modo ai Tessalonicesi: «Non cessate mai di pregare». 1 Tessalonicesi 5 e 17. Questa affermazione è stata fraintesa. Paolo non ha inteso sostenere che bisogna pregare sempre, perché un comandamento simile potrebbe portare alcuni a pregare 24 ore su 24, ma l'apostolo stava asserendo di non smettere di pregare, cioè di avere del continuo un atteggiamento di preghiera. Non preghiera nella vita, ma una vita di preghiera. Come si rivela questa vita di preghiera? E vivere in uno stato di continuo rapporto con Dio. Infatti, la preghiera è stata definita ogni forma di comunione con Dio. Allora l'esortazione di Paolo diventa chiara e deve intendersi: non interrompete la vostra comunione con Dio. Ho notato che molti, quando pregano in occasione di una riunione di preghiera, sono rilassati, calmi, fiduciosi, e spesso pregano con un filo di voce, quasi si sentissero irriverenti se si rivolgessero a Dio a voce alta. A mio avviso è con tale spirito che dovremmo vivere ogni istante, e questa è una vita di preghiera. Quando alzo la voce sto comportandomi come se parlassi a Dio. Quando sono teso, nervoso, ansioso, agisco come se fossi alla presenza di Dio. se sto serbando rancori, amarezze, vendette, rivendicazioni, ho lo stesso spirito di quando prego. Bisogna vivere come se si stesse continuamente pregando. Quest'ultima affermazione non l'ho imparata sui banchi di scuola. Sono stato costretto da Dio a realizzarla a causa della mia balbuzie. Quando conobbi l'Evangelo avevo i nervi a pezzi. Soffrivo di una balbuzie veramente fastidiosa. La cosa non mi sarebbe pesata più di tanto se non fossi stato continuamente incoraggiato a predicare. Chiesi a Dio di darmi qualche orientamento in proposito. E nella mia lettura quotidiana i miei occhi si posarono su un passo di Isaia. Ebbene, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante una lingua straniera che l'Eterno parlerà a questo popolo, Isaia 28:11. Vidi questa affermazione come rivolta a me. Accettai la mia balbuzie e il mio animo trovò serenità. Passò del tempo e i miei occhi caddero in seguito su un altro passo di Isaia. Il cuore degli sconsiderati capirà la saggezza e la lingua dei balbuzienti parlerà veloce e distinta. Isaia 32:4. Non potevo certamente applicare a me ogni profezia, ma qualcosa nel mio cuore mi diceva che ciò era possibile anche per me. Cominciai a gustare questa promessa. Nella mia tranquillità pregavo speditamente e i miei fratelli se ne accorsero. Un giorno mi fecero notare come non balbettassi più mentre pregavo. Incoraggiato da questi risultati, mi imposi di avere lo stesso atteggiamento mentre parlavo con gli altri e soprattutto mentre predicavo. Il risultato fu straordinario. In poco tempo, la mia balbuzia sparì al punto che in seguito ho potuto partecipare a trasmissioni radiofoniche. Ancora oggi, quando sono teso e nervoso, il mio parlare non è scorrevole. Così io sono costretto a non avere mai e dico mai nessuna tensione, nessun nervosismo, nessuna angoscia. Fu così che mi proposi di non cambiare questo mio atteggiamento di preghiera, anche in quelle situazioni che sono definite bibliche o spirituali, perché la volontà di Dio non produce conseguenze negative, né al fisico né allo stato d'animo di una persona. Ecco alcune promesse che ho trovato nel libro dei Proverbi. Non ti stimare saggio da te stesso, temi l'Eterno e allontanati dal male, questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Proverbi 3:7-8. Figlio mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Proverbi 4:20-22. Poniamoci ora la domanda: come posso sapere se ho veramente comunione con Dio? Il mio cuore non è forse ingannevole più di ogni altra cosa? Ciò è vero. Ma ognuno di noi può comprenderlo dai risultati, perché una comunione con Dio produce delle conseguenze. Come è vero che nessuno, parlando per lo Spirito, può affermare che Gesù è anatema? 1 Corinzi 12:3. Come nessuno può essere sincero quando afferma di amare Dio se non ama il fratello? 1 Giovanni 4:20. Così nessuno può sostenere di essere in comunione con Dio o di avere uno spirito di preghiera quando questa comunione produce degli effetti contrari a tale comunione. Cosa produce uno spirito di preghiera? Vediamo qui di seguito 4 effetti. 1. La pace di Dio. A colui che riposa in te, tu conservi una pace perfetta, perché confida in te, Isaia 26:3. Ma è come oggi l'umanità cerca la pace, e questo perché si rende conto che senza pace qualsiasi cosa non ha valore. A cosa serve la convivenza senza la pace? A cosa servono i soldi senza la pace? A cosa serve la salute senza la pace? A cosa serve la felicità senza la pace? La pace è necessaria quanto l'aria per respirare. Proprio perché la pace è così indispensabile, il cristianesimo è un messaggio principalmente di pace. L'apostolo Paolo, che nel corso della sua vita ha conosciuto paure e ogni tipo di sofferenze, da una prigione scriveva dei cristiani le seguenti parole, che, afferrate per fede, possono cambiare radicalmente la vita di un credente. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Filippesi 4:4-7. Le promesse contenute nella parola di Dio disarmano. A volte sono talmente precise e sicure che la difficoltà non sta nel comprenderle, ma nell'accettarle. Paolo afferma che chi ha posto fede in Cristo Gesù si deve rallegrare in Lui, cioè deve gioire per tutto ciò che ha ricevuto credendolo quale Salvatore e Signore. Inoltre, il credente non deve preoccuparsi né addolorarsi di qualsiasi situazione, perché se presenta i suoi problemi a Dio, la pace che ha ricevuto mediante il perdono dei peccati sarà tenuta ferma da Gesù Cristo stesso. Questa promessa, calata nella realtà della nostra vita, ci insegna qualcosa. Se crediamo di avere una vita di preghiera, ma continuiamo a essere turbati, dobbiamo rivedere il nostro rapporto con Dio e le nostre convinzioni. La vera preghiera produce la pace che Paolo definisce di Dio. Sì, perché esiste anche la pace del mondo o quella della nostra ragione. Ma la pace di Dio è sempre il risultato della fede perché umanamente parlando possiamo avere tutte le ragioni per essere in ansia, ma confidando in Dio quale nostro sovrano, accettando le sofferenze quali strumenti nelle sue mani per farci del bene e perfezionarci, credendo alle sue promesse, la nostra anima troverà la serenità in Dio e di Dio. Un giorno mia suocera, donna timorata di Dio, ricevette una telefonata. Uno dei suoi figli era precipitato durante una scalata in montagna ed era clinicamente spacciato, ma lei con fede lesse la parola di Dio. Ricevette una promessa di guarigione e ritrovò la pace. La guarigione in seguito si avverò, ad onta dello scetticismo da parte dei medici. Una sorella mi ha confidato che era appena andata in banca a ritirare i soldi quando, poco dopo, si accorse con orrore che li aveva persi per strada. Tornò indietro con una fiducia e una serenità di cui lei stessa era stupita. Recuperò tutti i soldi, nonostante che alcune persone fossero passate di lì. La pace di Dio, e non la nostra, è un elemento fondamentale per sapere se viviamo in uno spirito di preghiera. Dobbiamo diffidare di ogni opera, anche nel campo di Dio, che non porti sia la pace nel nostro cuore che in quello degli altri. Dobbiamo diffidare anche di ogni messaggio cristiano che non produca la pace di Dio. Non mi riferisco a crisi o ripensamenti perché l'Evangelo deve scuotere la nostra coscienza e i nostri pensieri, ma quando il messaggio evangelico produce pesi o carichi agli ascoltatori o dei dubbi sulla sua autenticità. Quando è lo Spirito Santo ad operare, le persone sono indotte ad andare a Cristo, ma quando è il maligno che opera nel cuore di un uomo, come nel caso di Giuda, il discepolo di Gesù, le persone sono tentate di distruggersi. La pace di Dio in Cristo è l'antidoto per le inimicizie, per le contese, per le guerre. Giacomo, il fratellastro di Gesù, senza peli sulla lingua, disse: «Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? La pace concilia, riconcilia, cerca il positivo, guarisce, comprende. Un cuore in pace non è solo salute per l'anima, per i rapporti sociali, ma anche per la salute fisica. Molte persone hanno trovato e ritrovato la salute quando sono state liberate da sentimenti negativi e quando, al loro posto, è sorta la pace. Vi è un'iscrizione che si trova nell'antica chiesa di S. Paolo, a Baltimora, datata 1692, che mi piace leggere ogni tanto e che ora ne propongo una parte. Sii te stesso. Soprattutto non fingere negli affetti, e neppure sii cinico riguardo all'amore, poiché a dispetto di tutte le aridità e disillusioni esso è perenne come l'erba. Accatta benevolmente gli ammaestramenti che derivano dall'età, lasciando con un sorriso sereno le cose della giovinezza. Coltiva la forza dello spirito per difenderti contro l'improvvisa avversità, ma non tormentarti con l'immaginazione. Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine. Al di là di una disciplina morale, sii tranquillo con te stesso. Tu sei figlio dell'universo, non meno degli alberi e delle stelle, tu hai il diritto di essere qui. E che ti sia chiaro o no, non vi è dubbio che l'universo ti si stia schiudendo come dovrebbe. Perciò sii in pace con Dio, comunque tu lo concepisca, e qualunque siano le tue lotte e aspirazioni, conserva la pace con la tua anima pur nella rumorosa confusione della vita. Con tutti i suoi inganni, i lavori ingrati e i sogni infranti, è ancora un mondo stupendo, fai attenzione. Cerca di essere felice. Dio ci ha dato la pace, e noi dobbiamo conservarla come un tesoro. Essa deve essere il metro per valutare il nostro rapporto non solo con Lui, ma anche con il nostro prossimo e nel servizio per Dio, perché si può sbagliare anche lavorando per Cristo. Pietro ordina, se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio, mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 1 Pietro 4 e 11. Il messaggio è chiaro. Si deve lavorare con le forze che Dio ci fornisce. Il di più è solo il risultato di uno sforzo umano, che la Bibbia chiama carne. Vi possono essere depressioni, esaurimenti, non solo perché si fanno cose che Dio non chiede, ma anche perché si sta facendo più del dovuto. Un figlio di Dio che non conserva la pace, non emana intorno a lui la pace di Cristo, è un testimone poco efficace, perché quello che è parla molto più forte di quello che dice. La pace di Dio è ciò che dà valore all'operato e alle parole di chi si professa cristiano. Quando troviamo scritto nella parola di Dio che la dolcezza delle labbra aumenta il sapere, Proverbi 16 e 21, vuole intendere anche che il parlare risultante da un cuore sereno valorizza le parole. Spesso le persone si avvicinano a Dio perché vedono nel cristiano una serenità che non conoscono, perché vedono in lui qualcosa che vorrebbero avere e che non trovano nel mondo, e questo, ancora una volta, porta gloria a Dio. Dobbiamo quindi curare questa pianta rara nel giardino del nostro cuore se vogliamo raccogliere i suoi frutti. Tutti coloro che sono in pace sono felici e, a loro volta, rendono felici gli altri. Chi non è in pace non è contento di quello che ha, di quello che vede, di quello che sente, di quello che prova. Trova sempre qualcosa che non va e non riesce a gioire delle piccole cose. La pace può abitare solo in un cuore umile. È il modo di vivere per il quale siamo stati creati. Accettiamo l'appello che fece Paolo 2000 anni fa. Siate riconciliati con Dio e la sua pace abiterà nel nostro cuore. 2. I frutti dello Spirito. Un altro risultato della comunione con Dio, cioè uno spirito di preghiera, sono i frutti dello Spirito Santo. Come non è possibile stare al sole senza sentire il suo calore, così è impossibile stare alla presenza di Dio senza produrre i risultati di tale unione. Questi risultati li ha espressi molto bene. Paolo esprime molto bene questi risultati confrontando i frutti dello Spirito con le opere della carne. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie, cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5, 19-22. L'Apostolo Paolo ha una logica disarmante. Egli considera che poiché chi vive per la carne, cioè con una volontà non sottomessa a Cristo, ha un certo comportamento sbagliato, chi vive per lo Spirito, cioè è in comunione con Dio, per forza di cose ha un comportamento santo conforme al volere di Dio. Oltre ad un benessere interiore, una vera vita di preghiera produce dunque anche un cammino condotto dallo Spirito Santo. Poiché il XXI secolo sarà caratterizzato da movimenti che si riterranno guidati dallo Spirito Santo e non lo sono, Come riconoscere dunque ciò che è dallo Spirito Santo? La risposta non può che essere una sola: dai suoi frutti. E poiché Dio si è preoccupato di dirci quali sono i frutti dello Spirito Santo, ogni volta che nella nostra vita abbiamo comportamenti diversi da quelli descritti, dobbiamo rivedere il nostro rapporto con Dio. Se noi creiamo divisioni, se abbiamo uno spirito ribelle, se non abbiamo autocontrollo, se perdiamo la pazienza, non possiamo dire a noi stessi che stiamo camminando per lo Spirito Santo. Possiamo anche contarcela, possiamo illuderci, ma alla fine abbiamo ingannato solo noi stessi. È necessario credere più alla Scrittura che alle nostre opinioni. Prendiamo ad esempio la gioia. Il libro intitolato La vita cristiana felice, scritto da una donna, Anna Whitall Smith, inizia con la seguente riflessione. Se riflettiamo un momento, non possiamo mettere in dubbio che per la maggior parte dei credenti la vita cristiana non è una vita di gioia, o perlomeno non lo è completamente. Una persona che aveva spirito d'osservazione mi disse una volta: «Voi credenti, sembrate possedere una religione che vi rende musoni. Sembrate individui che soffrono mal di testa. Non arrivereste mai al punto di voler rinunciare ad avere la testa, però vi dà noia di averla. Onestamente non potete sperare che altri si lascino attrarre da qualcosa che mette tanto a disagio». Virgolette punto. Questa riflessione dimostra ancora una volta che il mondo osserva i credenti più di quanto essi non pensino. Alcuni credenti trovano strano che le persone non accettino l'Evangelo, ma a parte la loro responsabilità che rimane comunque, spesso chi non crede è allontanato dalla fede per l'incoerenza di coloro che dicono di credere in Cristo. Si diventa figli di Dio quando si riceve il perdono da Dio, ma sembra che vivere da cristiani per alcuni sia una condanna. Certi credenti sono come coloro che hanno fatto un affare ma ne sono dispiaciuti, vivono come dei pentiti. Sono come coloro che hanno venduto tutto per comprare un campo perché c'era un tesoro e ora si comportano come se volessero rivendere il campo per riavere quello che hanno venduto. Sono ricchi, ma hanno le necessità del bisognoso, come è scritto: «Ci è chi fa il ricco e non ha nulla». Proverbi 13:7. Vivere uno spirito di preghiera significa parlare, agire, comportarsi con lo stesso atteggiamento che si avrebbe davanti a Dio, atteggiamento di gioia, di allegrezza, di riconoscenza. Come abbiamo detto, uno spirito di preghiera è efficace non solo per lo spirito dell'uomo, ma anche per il corpo. Una persona che ama si rallegra, è in pace, è temperante, non avrà malattie causate dall'insonnia. Sta scritto: «Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Conserva la saggezza e la riflessione. Esse saranno vita per te e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura. Starai a letto e il tuo sonno sarà dolce». Proverbi 3:21-24. Al credente non dovrebbero correre psicofarmaci per dormire, pastiglie per stare calmi, ma solo una vita condotta dallo Spirito Santo. Lo stato normale del cristiano sarà la mancanza di malattie dovute alla fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Galati 5:19-21. Una salute come risultato di una alimentazione sana, di una vita equilibrata, onora Dio tanto quanto predicare l'Evangelo. Uno spirito di preghiera, ecco cosa ci occorre per risolvere ogni problema della nostra vita. Quella preghiera che non assale il trono di Dio, che non si offende se Dio non ascolta. È molto importante comprendere il reale rapporto che nella preghiera abbiamo con il nostro grande Dio e Salvatore. Noi chiediamo al nostro Dio di liberarci da certe situazioni, milioni di figli di Dio pregano di non passare certe esperienze, eppure alcuni ottengono ciò che chiedono, altri no. Chi è esaudito deve comprendere che ha ottenuto non sulla base della propria richiesta, per quanto ovviamente Chiedere resta sempre la condizione per ottenere certe risposte, ma perché nella sua misericordia e bontà Dio ha deciso di dare ciò che gli è stato richiesto? In quest'ottica sono veramente assurde e insensate le reazioni di alcuni figli di Dio per la mancanza di esaudimento alle preghiere. Così come altrettanto assurde e anche presuntuose sono le insinuazioni di taluni figli di Dio, che accusano un fratello, inesaudito nelle sue preghiere, di aver mancato di fede nella preghiera, o nella certezza che Dio mantenga sempre le sue promesse, o di non aver pregato bene, o abbastanza. Questo atteggiamento parte da un presupposto sbagliato, una mancata ed errata posizione nei confronti di Dio. Poiché Dio non è obbligato di dare ciò che chiediamo, poiché ha tutti i diritti di non esaudirci, allora la nostra preghiera, come abbiamo detto, non risulterà più un assalto pretenzioso al trono di Dio, ma una richiesta umiliata e umiliante, aspettando anche incerti e certi l'esaudimento. Se questo avviene, è tutto un di più. Se non riceviamo ciò che abbiamo chiesto, fa parte delle sue risposte negative. Nessuna pretesa, nessuna offesa, solo gratitudine nonostante tutto. Questo è lo spirito di preghiera. Si vive con le mani tese e aperte per ricevere a piene mani ciò che Dio ci vuole dare. Diversamente, rimane la preghiera finale che fece anche il Figlio di Dio nel Getsemani: Padre, sia fatta la tua volontà. In tal modo, le situazioni della nostra vita, anche se non sono risolte, come del resto non le risolse Gesù perché comunque andò sulla croce, esse sono affrontate con lo spirito giusto, quell'atteggiamento che ci fa risolvere ogni problema della nostra esistenza. Queste non sono solo parole, ma una realtà per chi vive con uno spirito di preghiera. L'Eterno ci dia di avere e raggiungere questo obiettivo. 3. L'amore per i fratelli. Scrive Giovanni nella sua prima lettera. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama, rimane nella morte. 1 Giovanni 3,14. L'apostolo che Gesù amava vede l'amore per i fratelli, che in questo caso sono i figli di Dio, come una prova indiscutibile e una testimonianza per se stessi, che si è avuto l'esperienza della nuova nascita, che si è diventati figli di Dio per vivere da cristiani. La domanda che oggi ci si pone è: chi è un cristiano? È un interrogativo di un'importanza capitale perché sarà sempre più difficile distinguere chi sia un vero cristiano. La parola di Dio definisce coloro che credono in Cristo, credenti, Atti 5,14, discepoli, Atti 9,1, santi, Efesini 1,1, fratelli, Giacomo 2,1. Salvati, Atti 2,47. Figli di Dio, Giovanni 1,12. Ma non troviamo una sola volta che chi pone fede in Cristo di conseguenza sia chiamato con il sostantivo cristiano. È vero che la parola cristiano si trova 3 volte nel Nuovo Testamento, ma non è attribuito automaticamente a tutti i figli di Dio. Infatti, una volta è attribuito da parte degli increduli ai credenti di Antiochia come nome dispregiativo, Atti 11,26. La seconda volta la usa Pietro in senso generale, 1 Pietro 4,16. L'altro termine lo usa il re, Agrippa parlando di se stesso. Perciò non leggiamo mai nella parola di Dio che chi crede in Cristo diventa automaticamente un cristiano. Un cristiano è colui che ha una precisa identità teologica. 1 Giovanni 4, 2-3 è un cammino secondo la volontà di Dio. 1 Giovanni 2, 3. Perciò, cristiani si diventa dopo essere nati di nuovo. Se non facciamo questa distinzione senza demonizzare nessuno, ma solo con lo scopo di chiamare le cose con il loro vero nome, ci troveremo in una grande confusione quando verrà la vera confusione religiosa. Dunque, secondo l'Apostolo Giovanni, chi è nato di nuovo, chi è figlio di Dio, chi è discepolo di Cristo, ama di conseguenza i fratelli. Nessuno può amare i figli di Dio senza avere lo Spirito Santo, e questo lo riceve chi è passato dalla morte alla vita, cioè colui che ha sperimentato la nuova nascita. Una delle più belle esperienze cristiane, nonostante tutto, rimarrà sempre l'amore fraterno. Quando si diventa figli di Dio si sperimenta un affetto e un amore per persone che prima ci erano indifferenti, quando addirittura non si odiavano, come l'apostolo Paolo, Atti 26:10. Si desidera la loro compagnia, si capisce il loro linguaggio, si approvano le loro vie. Uno spirito di preghiera produce l'amore per il fratello. Di conseguenza possiamo affermare che chi non ama i figli di Dio, con un comportamento a loro favore, non sta vivendo in comunione con Dio. Quando sorgono dei conflitti di relazione, i problemi non sono esterni, ma provengono dal nostro cuore. Non sono le occasioni che ci alterano i nostri rapporti con il prossimo, non sono i conflitti o le contrarietà che producono esaurimenti o depressioni, ma è il nostro atteggiamento di fronte a essi. Come dicevano i filosofi prima di Cristo, non sono le cose che ci turbano, ma l'opinione che abbiamo di esse. Ecco perché abbiamo asserito all'inizio che non esistono problemi sociali, ma solo problemi personali. Accettare una tale analisi significa aprire la strada verso la guarigione dai sentimenti feriti. Un cuore che ama è un cuore che guarisce. Uno spirito di preghiera vince le situazioni negative esterne, anche se non le toglie. È stato affermato più volte che i fratelli, tanto gli spirituali che i carnali, non li abbiamo scelti noi, così dobbiamo amare quelli che Dio ci ha dato e che fanno parte della comunità alla quale apparteniamo. Se non sono capace di amare il fratello vicino, tanto meno sarò capace di amare quello lontano. Se non risolvo i miei problemi con chi mi è accanto, è inutile che cerchi di risolverli con chi è lontano. Come amare il mio fratello in fede? Le espressioni di amore sono tante, ma la prima espressione più spontanea sarà quella di stare con loro. Chi ama? Desidera la compagnia dell'amato, è disponibile ad aiutare, soffre e gioisce con i fratelli, è pronto ad aiutare nelle difficoltà. È vero che, come per ogni rapporto, avvengono attriti e conflitti, ma quando si prega per qualcuno e si vive con uno spirito di preghiera come per miracolo e miracolo è, i sentimenti iniziano a cambiare e un sentimento di affetto divino prende il posto di uno spirito contrariato, ferito. 4. L'inimicizia. Nella parola di Dio vi sono delle forti contrapposizioni. Contrapposizioni, non contraddizioni. Una contraddizione è un rapporto di opposizione per cui una verità esclude l'altra. La contrapposizione esiste quando le due verità sono antitesi ma non si escludono. Vi è diversità ed opposti, ma sono complementari. In effetti Dio ama ma odia chi compie il male. Il Dio dei cristiani è un Dio che si rivela, ma si nasconde anche. Cristo Gesù è pienamente Dio ma anche pienamente uomo. Il messaggio del Vangelo è ragione di salvezza ma anche di perdizione. Gesù è la pietra angolare per chi pone fede in Lui, ma anche la pietra di intoppo per chi non crede. Queste sono verità, come abbiamo detto, diverse, contrapposte, ma complementari. Così, il messaggio centrale del Vangelo è, sì, la pace e l'armonia, ma è altresì un messaggio di guerra. Gesù avvertì, non pensate che io sia venuto a metter pace sulla terra, non sono venuto a metter pace ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Matteo 10:34-36. Noi dobbiamo prendere sul serio non solo le parole di Gesù che ci piacciono, ma anche queste. Affermare che una vita condotta dallo Spirito Santo susciti dei nemici sembra un controsenso allo spirito del Vangelo, ma è un aspetto del cristianesimo che di tanto in tanto è bene ricordare. La vita del cristiano, che si voglia o no, produce nemici, come riconosce il proverbio. L'uomo iniquo è un abominio per i giusti, e colui che cammina rettamente è un abominio per gli empi, Proverbi 29-27. E ancora, quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che l'osservano fanno loro la guerra, Proverbi 28-4. È evidente dalla scrittura che i nemici non sono persone che si sono offese, persone a cui si è fatto del male, ma sono coloro che sono nemici di Dio, e chi è dalla sua parte diventa loro nemico. Gesù parlò chiaro, il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui, che le sue opere sono malvagie, Giovanni 7:7. Il cristiano è odiato non per il suo carattere o la sua condotta, almeno così dovrebbe essere, ma perché il carattere di Cristo vive per lui, perché esce fuori dai cori del perbenismo per mettere in evidenza davanti agli altri i loro peccati. Questo non può che creare opposizione, come profetizzò Paolo, coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù. Saranno perseguitati, 2 Timoteo 3:12. E questo, a onor del vero, può succedere anche all'interno della propria confessione di fede. Un credente che si vanta di andare d'accordo con tutti e che tutti gli sono amici, non sa di condannare se stesso. Qualcuno ha enunciato che il carattere di un uomo si conosce dai suoi nemici. Se non sappiamo accettare questa realtà, se non accogliamo le parole di Gesù, che è venuto anche per mettere guerra e divisione, la crisi spirituale è inevitabile. I figli di Dio si devono mettere in discussione, non quando hanno dei nemici causa l'Evangelo, ma quando non ne hanno. Chi accetta anche questo aspetto della vita cristiana risolve i problemi della sua vita in merito ai conflitti esistenti tra il cristiano e il mondo. Il mondo, cioè il sistema malvagio presente, non può andare d'accordo con i figli di Dio, e questo diventa per un cristiano un motivo in più per cercare la comunione fraterna. Perché la vita comunitaria dei figli di Dio è vissuta a stento? Perché i credenti sono così poco impegnati nella comunità? Il motivo è perché si trovano a loro agio nel mondo, perché non sono contrastati, perché il mondo li ha sedotti. Purtroppo, i credenti cercano la comunione fraterna solo quando realizzano che il mondo è a loro ostile. Come la luce e le tenebre non vanno d'accordo, così il mondo e il cristiano sono e devono essere in contrasto. Se non vi è questa dicotomia, qualcosa non va. O il mondo è migliorato, o il cristiano ha un livello spirituale più basso. Dato però che il mondo non può migliorare, è il cristiano che ha abbassato il suo livello di santità. Purtroppo, questa è la triste realtà. Ma verrà il giorno in cui i figli di Dio lasceranno le istituzioni religiose e dovranno trovarsi nelle case per leggere la parola di Dio e pregare come i primi cristiani. Vale la pena ripeterlo, non si tratta di isolarsi perché si ha un atteggiamento di avversione o di una lotta armata, piuttosto si tratta di un contrasto tra la santità e l'ingiustizia, tra l'errore e la verità. Senza questo contrasto non vi è cristianesimo. Se si vogliono risolvere i problemi della nostra vita, occorre quindi mantenere una ferma posizione a favore di Cristo. Un credente che non esprime chiaramente la sua fede è più esposto a contrarre amicizie o matrimonio con chi non è figlio di Dio, come chi sul lavoro non dichiara apertamente la propria fede è esposto a scendere in compromessi o adeguarsi alla maggioranza. Ho notato il più delle volte che chi esprime la sua fede in modo chiaro e con franchezza viene rispettato. Non sarà condiviso il suo punto di vista, ma un nemico forte, coraggioso, leale, è sempre tenuto in considerazione. E quando si è temuti, anche se si viene contrariati, si risolvono alcuni problemi della vita, o meglio, Dio risolverà i problemi per noi. Ho fiducia che queste riflessioni abbiano un effetto positivo sulla quotidianità della tua esistenza, perché esse sono scaturite da una vita vissuta. Come ho detto all'inizio, quando si parla di Dio e del suo regno, credo che non sia il momento di scherzare, perciò ho scritto nel cospetto di Dio mediante il quale è veramente possibile risolvere ogni problema della nostra vita. Il Dio dei cristiani non vuole togliere ogni difficoltà dei suoi figli, anche perché esse sono un mezzo per conoscere personalmente alcune sue caratteristiche. La sofferenza, i problemi, gli ostacoli sono una condizione per la quale noi facciamo l'esperienza di un Dio d'amore, di giustizia, di misericordia. Sì, è vero. Dio è tutto questo, ma non lo è per noi fino a che non ne facciamo l'esperienza. E, come dire, che noi sappiamo che un uomo è generoso, ma lo conosciamo come tale solo quando ci troviamo in necessità e lui interviene a nostro favore. Ci sono aspetti del carattere di Dio di cui abbiamo una conoscenza esclusivamente intellettuale e alcuni di questi diventano nostri, calano all'intero nostro essere solo per rivelazione, solo quando ne facciamo uso appropriandocene. Forse l'esempio più eclatante è Gesù Cristo quale Salvatore. Tutti sono a conoscenza che Egli è venuto per salvare tutti i peccatori, ma solo chi accetta di essere perduto può fare l'esperienza e appropriarsene come personale salvatore. In quest'ottica, ciò che per istinto cerchiamo di evitare diventa una ragione di lode. Umiliamoci dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli ci innalzi al tempo opportuno. 1 Pietro 5:6. Che Dio dia a tutti noi di essere dei Suoi figli per godere l'inestimabile comunione con Cristo e i nostri fratelli, affinché il nostro grande Salvatore risolva per noi i problemi della nostra vita. Per tutti noi vale una delle tre cose: o abbiamo un problema, o viviamo con un problema, o siamo un problema. Ma con Cristo non è più un problema.